Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi proseguiamo, come ogni prima puntata del mese, il nostro viaggio inchiesta in Cina, paese che sta sempre più reclutando giovani talenti italiani, offrendo loro opportunità ormai rarissime nel bel paese. Torniamo anche a parlare di designer. Vi sembrerà incredibile, ma nella patria della creatività per eccellenza, i nostri giovani designer fanno una fatica maledetta a imporsi e a emergere. La comunicazione d'impresa, soprattutto se coordinata, olistica e sperimentale, in Italia è una materia ancora molto accademica, soltanto sui libri. Quindi l'età media alta della dirigenza in Italia risulta una barriera all'ingresso molto forte. Luca Di Cesare, 32 anni, è design director per la propria azienda. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. L'80% dei neolaureati già occupati è disposto a trasferirsi all'estero per un anno, lo rivela l'agenzia di selezione Bachelor. La percentuale raggiunge l'85% per i giovani laureati disoccupati. Gli uomini sono più disposti al trasferimento rispetto alle donne. L'intenzione di espatrio cala, ma resta alta al 60% nell'ipotesi di un trasferimento triennale. La meta più gettonata è l'Europa, poi gli Stati Uniti. E forse a spingere alla fuga sono anche i salari italiani. Il primo impiego vale nel bel paese 823 euro netti al mese, lo afferma il centro studi Data Giovani. Al nord il guadagno è di 876 euro, nel mezzogiorno non arriva ai 750 euro, 1088 euro la paga media di un neolaureato. Solo il 41,5% dei giovani tra i 18 e i 29 anni si dice disponibile ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, una quota che scende al 18% per i laureati, è quanto riporta l'osservatorio ISFOL. Di giovani ha parlato anche il Papa. La disoccupazione mina la stabilità sociale e il bene comune. La precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, è motivo di angoscia delle famiglie, ha affermato. In Italia i precari sono 2 milioni e mezzo, il 44% giovani. Appello del ministro del lavoro Maurizio Sacconi ai rettori delle università italiane affinché, come previsto dal collegato lavoro, i curricula dei laureati siano inseriti online. Una network per riunire i cervelli italiani in Finlandia, si chiama Immigrating Brains ed è il sito web che riunisce i ricercatori fuggiti nel paese scandinavo. Ma dobbiamo andarcene tutti? Questo è il titolo provocatorio dell'Assemblea dei Giovani Imprenditori di Asso Lombarda, svoltasi mercoledì, un momento di riflessione sulla necessità di porre le condizioni per far restare imprese e talenti. Alvise Biffi, presidente dei Giovani Imprenditori Lombardi. È proprio una domanda di attualità. In Italia opportunità veloci per i giovani non ne abbiamo. La nostra risposta alla domanda è no, noi giovani imprenditori di Milano vogliamo rimanere a Milano e far ritornare Milano e l'Italia grande sui mercati internazionali. Per poterlo fare ci serve libertà di sviluppare le nostre idee, credito non solo economico ma anche credito proprio di fiducia da parte nel paese, nei giovani, in modo tale che i mille orpelli che ci frenano e ci spingono ad andare verso l'estero, dove invece ci offrono degli ascensori per andare più velocemente, siano finalmente anche in Italia, come ci sono stati nel periodo del famoso miracolo italiano. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: uno specialista di relazioni comunitarie all'ufficio brevetti europeo, sede di Bruxelles, scadenza per i CV 18 aprile, info su epo.org. Un Editorial Project Manager a World Appeal, sede di Parigi, scadenza per i CV 15 aprile, info su worldappeal.com. E infine un fisico o ingegnere al CERN di Ginevra, scadenza per i CV 15 aprile, info su ert.cern.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Cina per la nostra serie tematica sui giovani talenti italiani emigrati in Estremo Oriente. Nome: Luca. Cognome: Di Cesare. Età: 32. Città di origine: Milano. Studi: scienza della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente nel 2009. Per andare dove? In Cina. Perché? Per provare a portare l'eccellenza del design e più in generale l'eccellenza dell'estetica italiana. Quale lavoro svolgi attualmente? Designer. Dove? Tra la Cina e la Corea. Tornerai? Tornerò da pensionato senza pensione per restare, quindi. Atmosfere cinesi per introdurre la storia di Luca Di Cesare, giovane imprenditore e design director per la propria azienda. Anticipo subito, Luca, che tra le numerose email che ci hai inviato con la tua biografia e le tue riflessioni ci sono poche righe che a mio parere sintetizzano in modo esemplare la tua storia. Dal 2001 al 2006 ci siamo scontrati in Italia con una classe manageriale vecchia, biologicamente e mentalmente, con nessun sostegno istituzionale e con la carenza di chance per fare sistema con altre realtà. In tre righe, insomma, hai fotografato i mali principali dell'Italia di oggi per i suoi giovani più

imprenditori che arrivano qui pensando di insegnare tutto e scoprendo invece di essere rimasti indietro e di molto. E inevitabilmente ci sono stati grandi e piccoli problemi di comunicazione, di comprensione sia linguistica che concettuale e comportamentale. Abbiamo dovuto fare molti passi indietro, ripartire da zero e agire come dei robot multitasking, lavorando anche 20 ore al giorno per cercare casa, uffici, informazioni con le banche, i commercialisti locali, creare materiali informativi e anche visitare porta a porta aziende e imprenditori che spesso non capivano di cosa stessimo parlando. È vero che in Olanda, ad esempio, lo Stato aiuta i suoi giovani imprenditori che vanno all'estero, anche designer, a livello pratico, a livello di sostegno e di appoggio? E in Italia no? Sì, l'Olanda si è mossa in diversi modi, ha anche aperto degli uffici di sostegno, degli hub per giovani designer neolaureati. Per quanto riguarda l'Italia, non un singolo ufficio dedicato al design, che comunque rimane una delle eccellenze del Made in Italy, e soltanto camere di commercio che funzionano come distributori automatici. Se metti 5 euro ti danno 5 euro e non un centesimo di più. Oltre ai progetti commissionati, si ha la possibilità di proporre il proprio design ad aziende manifatturiere realizzando elementi di arredo e altri prodotti che in Italia soffrirebbero della precedenza data a nomi famosi morendo sulla scrivania o nel cassetto. Così Luca denunci a giovani talenti @radio24.it. Allora, due domande. La prima è: cosa esattamente offrite voi? Quale prodotto? E poi, la Cina è la terra delle possibilità per i giovani di talento e cosa impedisce all'Italia di esserlo? Al momento noi siamo concentrati sulla progettazione di negozi e sistemi d'immagine per marchi del lusso e dell'abbigliamento, sia clienti locali ai quali offriamo l'eccellenza del design italiano che consente loro di ottenere un riconoscimento internazionale maggiore, sia invece a marchi internazionali che vogliono aprire il mercato cinese e quindi hanno bisogno di un ponte sia a livello comunicativo che a livello di progettazione. Al momento la Cina è sicuramente la terra delle possibilità che devono essere sapute sfruttare. All'Italia mancano molte cose. Personalmente, secondo me, c'è molta stanchezza, c'è una scarsa inerzia, una poca propensione al fare e poco coraggio di puntare su un ricambio generazionale vero e proprio. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? La vedo vecchia, generalmente stanca e sempre più sporca. Penso che occorra ripartire da capo e creare un sistema probabilmente scolastico di qualità e un sistema meritocratico che faciliti l'emergere delle eccellenze che possano agire come trascinatori per tutto il paese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luca Di Cesare, 32enne designer e imprenditore di stanza in Cina. Una laurea in scienza della comunicazione alle spalle, Luca apre fin da studente un proprio studio. Gli inizi paiono promettenti, ma poi l'esperienza si complica, scontrandosi con un ambiente italiano ancora troppo dominato dai mostri sacri, nonché anziani del design tricolore, in un paese dove l'unica logica manageriale pare quella del chiacchiericcio, mentre sullo sfondo resta il vuoto dell'inesistente supporto istituzionale. Luca opta allora per allargare il business a Cina e Corea del Sud. E siamo qui in studio con Sergio Nava. Buongiorno, cofondatore e direttore creativo dell'azienda Entity Design. E giuro che non è uno scherzo, ma Sergio Nava è semplicemente un mio omonimo, no? Sì. Allora, Sergio, facciamo subito una precisazione. In un paese dove bisogna essere figli di, cugini di, parenti di, fratelli di, noi condividiamo solo il nome, giusto? Non abbiamo nessun legame di parentela. Sì, sfatiamo il mito. Siamo due persone differenti, ma non siamo parenti. Il motivo per cui ti ho invitato è che tu hai creato dal nulla una tua azienda di design, hai creato tra l'altro una lampada che ha una sua notorietà, Creaton. Ci spieghi qual è l'idea che c'è alla base del tuo design, quella di un design democratico? Parto da questa lampada Creaton, che è stato l'inizio di tutto, nel senso che questo oggetto rispecchia sia la mia idea di design ma anche l'idea di impresa che poi siamo andati a creare. Intorno a questo oggetto è stata fondata l'Entity Design ed è una società di nuova generazione legata a un concetto più che altro di network, cioè un insieme di persone che si sono messe intorno ad un progetto che è appunto quello di questa lampada e l'hanno portato a termine perseguendo praticamente un interesse comune, non solo a scopo di lucro ma anche cercando di portare avanti dei principi quali il Made in Italy, quindi si è voluti ritornare a produrre in Italia e investire in un progetto innovativo e soprattutto cercare di portare avanti un messaggio. Il messaggio che racchiude questo prodotto è quello di riportare le persone ad esprimersi, quindi riportare le persone ad esprimere la propria creatività. Tu hai 33 anni, hai vissuto tra l'altro a Londra, lavorandovi fino al 2007 come consulente, poi 4 anni fai il salto con l'apertura di una tua azienda. Quanto è stato difficile imporsi in un mercato italiano del design che, come sentivamo, è abbastanza asfittico e chiuso al nuovo? Diciamo che è un mercato abbastanza chiuso, anche perché storicamente è in mano a delle grosse aziende che hanno fatto appunto la storia del design, e per nuovi progetti e nuove aziende, soprattutto giovani designer, non è facilissimo entrare in questo ambiente, in questo commercio. Tu nella tua carriera, tra l'altro, hai vinto importanti premi internazionali di design, potevi anche decidere di andartene all'estero, dove forse le difficoltà di affermarti potevano essere minori. Cosa ti ha spinto e cosa ti spinge a restare in Italia? In un ambiente meritocratico è più facile affermarsi, è logico, perché se uno ha qualcosa da dire c'è lo spazio per dirlo, no? In Italia invece, dove c'è gerontocrazia, no? Anche troppa. Anche troppa. Se qualcuno ha qualcosa da dire, molte volte gli si tappa la bocca perché non c'è interesse nel nuovo. Il voler stare in Italia mi è venuto dopo l'esperienza all'estero, nel senso che dopo l'esperienza inglese ho capito che comunque scappare dall'Italia non aveva senso. Io sono nato qui, ho studiato qui, mi sono formato qui. E non vuoi dargli la vinta a chi ti vuol far andare via? Non volevo dare la vinta, ma più che altro perché lavorando nell'ambito del design mi sembrava illogico andarmene dal cuore del mondo del design, che è appunto Milano, per cominciare da un'altra parte. Un'ultima cosa, Sergio, tu stai avviando anche dei progetti e delle iniziative per valorizzare giovani designer italiani come te, e facendo rete riuscirete a scardinare un ambiente statico, gerontocratico, in mano sempre e solo ai soliti noti? In Italia, più che riuscire a far qualcosa, bisognerebbe iniziare a provare a far qualcosa. È quello che stiamo facendo sia con l'azienda che con il gruppo dei giovani imprenditori di Asso Lombarda di Milano, è quello di dare spazio alle giovani generazioni e giovani progetti. Stanno nascendo due progetti paralleli, uno con il gruppo dei giovani imprenditori Asso Lombarda, che vuole creare una sorta di network tra giovani designer e aziende che investono nella creatività dei giovani designer. Con la Entity Design invece stiamo aprendo un progetto che si chiama Entity Factory e vuole racchiudere un gruppo di designer che si autoproducono e si distribuiscono in network, nel senso che si creerà una sorta di distribuzione compartecipata. Grazie a Sergio Nava e in bocca al lupo. Grazie a te. Torniamo con Luca Di Cesare. Domanda di rito: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Partire, perché passione e coraggio rimangono i due cardini della realizzazione dei propri sogni. L'Italia è un'eredità fantastica, un'identità da far maturare e da esprimere al meglio. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi nuova puntata della nostra inchiesta sulle iniziative regionali di riattrazione dei cervelli. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, sentiamo Marta Formia, direttore del servizio formazione e gestione progetti di Area Science Park, che punta ad attrarre i cervelli dall'estero e a far restare quelli italiani. È da anni che la nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia, sviluppa proprio politiche di sostegno alla mobilità internazionale. Ogni anno, proprio per monitorare questa capacità attrattiva del territorio, viene realizzata una indagine annuale sulla cosiddetta mobilità della conoscenza, e che effettivamente sortisce dei dati, e di tutto rispetto, perché l'ultima, che è stata pubblicata nel 2009, ha dato un indice di flusso annuale di mobilità di studenti e ricercatori e scienziati stranieri sul nostro territorio decisamente molto alto. Andiamo sui numeri. 8.400 stranieri all'anno, no? Di cui più della metà sono iscritti a dei corsi di laurea appunto di primo livello nella nostra regione. Quindi diciamo che la presenza straniera sul territorio del Friuli Venezia Giulia è decisamente rilevante. È in crescita? Direi che ci atteniamo per il momento su queste stime, ecco. Con quali progetti concreti andate a pescarli, a prenderli negli altri paesi e li portate qui? Per esempio, recentemente abbiamo varato questo progetto Talents, che è Talents for an International House, che è cofinanziato dall'Unione Europea e gestito appunto da Area, che si sviluppa, diciamo, sempre nell'ambito del coordinamento degli enti di ricerca e per il sostegno alla mobilità dei ricercatori, in questo caso esperti. Si punta, diciamo, a un target decisamente alto. C'è un'azione che prevede mobilità in uscita, ma a fianco a questa, che è sicuramente quella che è stata più richiesta, e questo fa ben sperare, diciamo, come indice di attrattività del territorio, è, diciamo, l'iniziativa che riguarda la mobilità in entrata. Da quali paesi provengono? Un po' da tutti i paesi. Per far restare, diciamo, i nostri cervelli in regione, quali programmi o azioni avete implementato finora? Innanzitutto, per far restare bisogna potenziare le opportunità e cercare di mettere un attimo in sinergia quelle che sono le caratteristiche